Buonasera a tutti. Sono Ichigo Aoba. Godetevi spettacolo. Sono felice di essere qui. Sono davvero felice di poter entrare in contatto con tutti attraverso la musica. Oggi ci esibiremo con gli antichi che vivono qui. Oggi ci esibiremo con gli antichi che vivono qui.